You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, bentornati ancora una volta a Indovina chi viene a cena, cena cinese a Milano questa sera. In studio con me ci sono gli autori di un libro di fumetti, Chinaman, un secolo di cinesi a Milano, Becco Giallo Editore. Io do il benvenuto a Chai Rocchi e Matteo De Monte, benvenuti. Ciao a tutti. Allora, a dispetto dei nomi, l'esotico è lui, Matteo. Sì. Erano già stati ospiti, forse ve li ricorderete, di Radio 24, di Indovina chi viene a cena, per la pubblicazione di un loro libro che ha avuto molta fortuna, Primavera e Autunni, sul nonno di Matteo De Monte, uno dei primi cinesi a Milano. Ora sono tornati sulle origini della ricca e vivace comunità cinese nel capoluogo lombardo, ampliando un po' lo sguardo a una storia collettiva che comprende tutti gli antichi lignaggi che hanno messo radici nel nostro paese. Chinaman quindi è un libro di fumetti, è anche una mostra che in queste settimane potete visitare al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, fino al 17 di aprile, ed è anche un documentario a cartoni animati che racconta un secolo di migrazione a Milano e non solo. Alcuni brani li sentiremo durante la puntata di Sottofondo. Matteo, noi partiamo sempre da aspetti che ci interessano molto, quelli culinari. E voi raccontate del primo ristorante cinese a Milano, la Pagoda, nel 1962, perché la comunità cinese ha cambiato anche da noi, anche in questa città, anche il modo di approcciarsi alla cultura, e posso dire che adesso è una delle città italiane con più un approccio più libero alla cucina etnica, anche grazie alla comunità cinese. Sì, la Pagoda è stato il primissimo ristorante cinese della città ed è stato un evento mondano, un evento rivolto soprattutto ai cittadini italiani della nostra città. E quando aprì la Pagoda fu un evento così in che l'inviato da parte del Corriere della Sera per quell'inaugurazione fu proprio Dino Buzzati, che fece un reportage molto pittoresco di quel momento. Dino Buzzati, lo scrittore del Deserto dei Tartari, lo ricorderete tutti, pittoresco perché insomma lui era anche affascinato da questo modo di mangiare. Sì, lui era mangiare. Molto vicino anche al mondo di questi cinesi e conosceva personalmente uno dei soci, dei quattro soci che aprì la Pagoda, il signor Jiang Fimin. Era di casa in quel ristorante, tanto che nel libro firme che noi abbiamo potuto visionare in casa di uno degli eredi di questi cinesi, la firma di Buzzati, come così di tanti di altri nomi illustri, tra cui Mina, Umberto Eco, Augusto Martelli, erano tutti come dire frequentatori di questo posto, che è stato veramente il primo ristorante, oggi diremmo etnico, no? Oggi diciamo così, però ai tempi era solo ristorante cinese, era il primo cibo esotico che noi assaggiavamo. Oggi, come dire, forse è un po' inflazionata la cucina cinese dopo una ventina d'anni di ristorazione espressa, però ai tempi assaggiare quelle portate, assaggiare i ravioli al vapore per la prima volta era veramente una magia per chi non aveva mai viaggiato, non era mai stato fuori dal nostro paese, e per la prima volta era possibile entrare in contatto con una cultura completamente altra. È davvero per palati raffinati. La pagoda restò aperta per ben 37 anni in via Fabio Filzi a Milano. Purtroppo Jun Sa morì improvvisamente nel 1977. Al suo funerale un fiume di persone attraversò il quartiere, dimostrando il forte legame tra i membri della comunità cinese e moltissimi milanesi affezionati. Ma grazie all'impegno costante di Luigino Yang, che gli dedicò tutta la vita, la pagoda continuò ad essere per anni un luogo di incontro tra le due culture. Volevo dire una cosa su Dino Buzzati. La parte interessante di quell'articolo che scrisse lui è la parte finale, che ha un riscontro personale, in cui lui lamenta la vicinanza con i suoi commensali, che invece avevano viaggiato all'estero e continuavano a dire: ah, ma Hong Kong e i nidi di rondine non sono così, ah, ma a Shanghai il bambù. E quindi dice: la cosa più brutta di questa cena sono stati i miei commensali, che in qualche modo mi hanno tolto, no, la gioia, lo stupore per ogni boccone assaggiato. E mi sembrava carino. E poi c'è il titolo, no? Qual era il titolo del pezzo? Ti piace la marosta? Sì, che cos'è la marosta? Abbiamo scoperto essere un tipo di gambero sudorientale, ma il vero nome non l'abbiamo trovato neanche sull'enciclopedia, cioè non siamo riusciti a collegare questa marosta, che deve essere un nome così dialettale, milanese, o degli anni 60, esatto. Era il 1906, la Belle Époque, ed era tutto un fermento. Si percepiva una certa felicità nell'aria, favorita dal mito del progresso, che sembrava essere una soluzione a tutti i mali del mondo. Milano stava per essere consacrata come metropoli internazionale con una grande esposizione universale. Ad alimentare l'euforia del momento c'era la mastodontica impresa del traforo ferroviario del Sempione. Erano due gli spazi della fiera, il Parco Sempione e il terreno della Piazza d'Armi, su cui vennero costruiti circa 220 edifici per ospitare. Voi partite dai primi cinesi nel 1906, quando arrivarono a Milano per l'Expo di allora, l'esposizione universale. E leggevo una recensione del libro, veniva riportato un articolo del Messaggero del 20 agosto 1906, e c'era questa frase: una strana forma di pericolo giallo, l'Europa inondata di pesce fritto. Sì, perché vicino al padiglione, il padiglione cinese sorgeva vicino all'acquario, e a fianco al padiglione, come un braccio esterno, c'era un piccolo ristorantino dove c'erano tre cuochi cinesi che cucinavano proprio lì davanti agli spettatori delle pinne di pesce cane fritte e prosciutto. E noi non l'avevamo mai assaggiato il pesce cane, non pensavamo neanche che si potesse mangiare, per cui fu un immenso successo, e credo che si riferisca a questo. Sì, questi quotidiani che accompagnavano la presenza di questi primi commercianti o espositori, venditori all'Expo, non possiamo parlare di migranti ai tempi. Noi abbiamo utilizzato questo primo capitolo come innesco narrativo della presenza dei cinesi in città. Non erano dei migranti nel senso stretto in cui lo possiamo intendere noi. Erano proprio commercianti, loro vendevano tè e statuine in pietra, e quella era il alla ricerca di mercati nuovi. Esatto, tanto che il nostro protagonista, lo vediamo dentro il nostro fumetto, già nel 1904 era stato in Italia, e a Brescia aveva ottenuto dei premi per la qualità della sua merce, no? Per cui erano proprio dei commercianti. Wu Qianquei era un commerciante cinese arrivato in Italia proprio per l'esposizione. Veniva da un paesino vicino a Chintien, nella Cina meridionale, e commerciava statuine in pietra e tè. Era già stato in Italia nel 1904 a Brescia, dove aveva ottenuto dei premi per la qualità della sua merce. In quell'occasione aveva conosciuto Cesare Curiel, un commerciante meneghino che viveva nel quartiere di Porta Volta, e che ora incontrava nuovamente alla grande esposizione. Tra commercianti si intendevano. Oltre all'amicizia, condividevano una parte di affari. Queste statuette vanno a ruba nel mio emporio. Sembrano di giada, eppure costano molto meno. Sono realizzate con una pietra che chiamiamo pietra di Xintien, il luogo da cui viene estratta. È particolarmente morbida e quindi viene utilizzata per la produzione di oggetti d'arte. Posso fartene arrivare quante ne vuoi. Ma i loro affari non si limitavano alle statuette. Curiel conosceva un affittacamere che in via Canonica al 35, a pochi passi dal suo emporio e dall'esposizione, affittava volentieri a commercianti e commessi viaggiatori. E Wu cercava un posto dove stare per il periodo dell'esposizione. Già nel 1906 i primissimi cinesi ad arrivare in città mettono radici in qualche modo in quel quartiere. Nella zona di Chinatown, che è tuttora la zona di Chinatown, quindi tutto sommato sono rimasti lì. Come mai? Proprio per questo motivo, perché originariamente nel 1906 questi terreni del quartiere di Porta Volta, che ai tempi era il borgo dei Shigulat ed era una zona più che periferica, era campagna, e quindi lì avvenne il primo incontro. E resterà, siccome quello era vicino all'arena da una parte e vicino allo scalo Farini dall'altra, resterà un luogo che per i cinesi sarà molto pratico ma anche molto strategico. Ci fermiamo brevemente, torniamo con voi tra pochissimo a raccontarvi dagli anni 20 ad oggi come si è sviluppata la comunità cinese a Milano ma anche in Italia. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive! E schiene dritte! Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Stasera cena cinese a Milano con due ospiti, gli autori di Chinaman, Chai Rocchi e Matteo De Monte, un secolo di cinesi a Milano. E dico non solo, perché insomma stiamo parlando di Milano, ma della comunità anche a Bologna, a Torino. Abbiamo parlato dell'arrivo ai primi del Novecento e di questo flusso migratorio degli anni venti, con queste collane di perle, no? Le signore milanesi erano affascinate da queste collane. Anche perché ai tempi non esisteva la bigiotteria, per cui o eri aristocratica e possedevi dei gioielli oppure non ti mettevi niente al collo. Belle perle, 30 lire! Ma i cinesi avevano in mente di spostarsi a Roma, Firenze e soprattutto a Milano. Eccoli quindi in città, dove è bastato che una signora posasse il suo sguardo su quella merce luccicante, che i due erano già pronti a contrattare. Ma che belle, che luce. Quanto costano? 30 lire, solo 30 lire. Te ne do 15. Tieni, che sono sufficienti. Quando sono arrivate queste perle, che costavano così poco ed erano comunque così splendenti, luminose, piene di riflessi, le donne sono in qualche modo impazzite. E se da una parte, no, l'arrivo di questi cinesi provocò un certo disagio a livello cittadino, soprattutto per quanto riguarda il traffico, perché ci dobbiamo immaginare, questa è una cosa che dice lui, che nel 26 c'è stato il cambio del senso di marcia a Milano. Prima andavamo come gli inglesi, per cui c'era proprio un continuo ricostruire, no? Cioè, la gente faceva fatica a raccapezzarsi. In più arrivarono questi cinesi che non conoscevano per niente il codice della strada, per cui andavano dove volevano, arrivavano in galleria, fermavano la gente. Lo so che facciamo fatica a capirci, ma qui non siamo in Cina e ci sono delle regole. Sì, noi capire. Qui gli stranieri devono pagare una tassa di 2 lire al giorno per poterci... E c'erano già delle tensioni, Matteo. Sì, le tensioni provenivano soprattutto dal fatto che, allora, queste perle, queste cineserie, queste collane ebbero un grande successo e quindi le corporazioni degli altri venditori ambulanti e commercianti italiani cominciarono a fare pressione nei confronti delle autorità, perché è sempre lo stesso il cliché, no? Le loro merci costano troppo poco, hanno invaso il mercato con le loro merci dozzinali. E quindi queste pressioni arrivarono fino alle autorità fasciste E quindi da una parte le donne li vedevano con grande favore, soprattutto vedevano i loro prodotti con grande favore, e dall'altra gli uomini, le autorità e i commercianti gli andavano contro. E poi insomma cambia tutto con gli anni 30, perché c'è il fascismo e anche l'atmosfera cambia, e soprattutto l'Italia è nemica della Cina, no? Sì. Sì, succede che come era per Primavera-Autunni, la vicenda dei protagonisti, la vita quotidiana di questi migranti, così come degli altri cittadini, è determinata da le scelte politiche e diplomatiche che stanno sopra di loro, per cui la neonata Repubblica Nazionalista Cinese, che fino al 1936, al 1937 aveva dei rapporti molto buoni con il Regno d'Italia, da un momento all'altro, quando come dire, il patto tripartito viene sancito, i cittadini cinesi che si trovano sul suolo italiano diventano cittadini sudditi di un paese nemico. Il loro girovagare per strade e piazze come venditori ambulanti era visto con sospetto. Ne venne disposto l'allontanamento dalle località militarmente importanti. Diverse prefetture procedettero al fermo dei cittadini cinesi sul proprio territorio, avviandoli al confino, nei comuni dell'interno o nei campi di concentramento. All'inizio i primi cinesi vengono portati nel campo di Tossicia, che non è un vero e proprio campo di concentramento, è un grosso, è una camera vicino a una chiesa, un grosso camerone, così come anche Isola Gran Sasso. Quando invece arrivano in Calabria, a Ferramonti di Tarsia, il campo di Ferramonti di Tarsia è l'unico pensato sin dall'inizio su modello di quelli dei lager tedeschi, ed è pensato per contenere inizialmente gli ebrei. Poteva contenere fino a 3.000 persone. A un certo punto tutti i cinesi rinchiusi in tutti i campi d'Italia, anche quelli al confino nel comune di Atri, vengono mandati a Ferramonti di Tarsia, giù in Calabria, per cui diventa quello, e anche nel nostro fumetto è quello il centro del racconto. È il vero campo di concentramento con le baracche, per cui in qualche modo anche nel nostro immaginario è identificabile con i veri lager nazisti. Furono comunque 433 i cinesi chiusi nei campi di concentramento, mi pare al 65% sì, dei sì, cinesi sì, residenti in Italia in quel periodo, per cui parecchi. E poi, dopo il fascismo, la nascita delle famiglie miste. La rinascita, perché c'erano già state, sì, giustamente. La prima nel 34, dico bene? La primissima nel 33, perché sì. Mario Chang, il primo figlio registrato all'anagrafe del comune di Milano, il primo figlio della comunità cinese, è nato nel 33, per cui... E invece dopo il secondo dopoguerra iniziano a proliferare queste famiglie miste. A un certo punto arriverà anche la prima immigrata ufficiale, no? Molto avanti, tardi, io sì, mi sono stupita, anni 60. Sì. Molte donne arrivarono anche prima, però furono molto sporadiche, mentre... Inizialmente era un'immigrazione maschile. Assolutamente, sì. È chiaro che poi dopo, insomma, nel dopoguerra qualche donna rara arrivò insieme a suo marito, però la prima immigrata regolare di cui c'è documentazione e di cui c'è un po' anche una specie di, una specie di mitografia, perché è stato un personaggio molto molto importante, è stata questa signora Anna Chen, Chen Yuhua, e lei è stata importante sia per quanto riguarda la comunità di Bologna, dove andò primariamente, e poi all'interno della comunità di Milano insieme a suo marito Su Minchuen sono state punto di riferimento per la nuova immigrazione cinese che a partire dagli anni 80 ha fatto la storia qua a Milano, che è stato il vero e proprio boom, no? Negli anni 80. Senti, mi viene da dire, per le prima cravatte poi il Milan adesso ne ha fatta di strada la comunità cinese in Italia. Sì, sai che mi sembra che anche i cinesi in uno dei loro piani quinquennali abbiano programmato già che entro 10 anni la Cina diventi una superpotenza calcistica. Quindi questi passi sono passi che portano in questa direzione. E comunque mentre la Cina si compra pezzettini di casa nostra, noi gli abbiamo appena venduto il nostro precedente libro Primavera-Autunni, che verrà pubblicato in cinese a fine agosto, per cui ci portiamo a casa anche noi un piccolo risultato. Un lavoro, quest'ultimo, anche Primavera-Autunni chiaramente, ma anche Chinaman, che vi è costato anni di studi, ricerche, no? Sì, prima di tutto c'è una grossissima ricerca proprio delle fonti di questa storia. Noi quando abbiamo pubblicato Primavera-Autunni, e ne avevamo già fatto un pezzo di ricerca per trovare un contesto, no, a tutta la storia di suo nonno, ci siamo trovati nel bel mezzo di un altro racconto, che era il racconto di tutti gli eredi dei più antichi lignaggi italo-cinesi di Milano. Erano tutti gli eredi degli amici di suo nonno, in qualche modo quel cerchio di relazioni, no, che 60-70 anni fa aveva dato vita a famiglie e imprese, in qualche modo si stava riattivando, e noi ci trovavamo perfettamente nel mezzo, depositari di questa nuova memoria. Fare questo libro ci è sembrata la naturale, il contenitore ideale dove andare a custodire questa memoria. Matteo, avete trovato collaborazione o resistenze nel chiedere, nell'approfondire, fra la comunità cinese di ora, fra gli anziani che sono qui presenti? Ma Primavera-Autunni è stato un ottimo biglietto da visita per entrare in relazione con, come dici tu, questi anziani, perché soprattutto la memoria, i depositari di questa esperienza diretta, di questo microcosmo sino-italiano che fino alla fine degli anni 60 è stata la comunità cinese di Milano, sono tutte persone che oggi hanno, insomma, più di 80 anni. Ed è stato importantissimo perché per la prima volta non solo hanno aperto le loro memorie e testimoniando con i loro racconti, ma ci hanno dato la possibilità di accedere anche a degli oggetti materiali della loro storia, per cui nella mostra di cui abbiamo parlato prima, che potete vedere al MUDEC fino al 17 di aprile, io e Chai abbiamo personalmente reperito alcuni oggetti della vita materiale di questi migranti che sono davvero inediti. Nessuno, né gli accademici né la ricerca sociale avevano ancora messo in mostra per il grande pubblico cose come, per esempio, il primo vestito tradizionale con cui uno di questi immigrati è arrivato in Italia nel 1936. Noi li raffiguriamo nel nostro fumetto sempre in doppio petto, sempre col gessato, il borsalino, ma quando loro sono arrivati dalla Cina a metà degli anni 30, ovviamente vestivano i loro abiti tradizionali cuciti a mano probabilmente dalle donne della loro famiglia, e così è. Potete trovare al MUDEC in mostra queste giacchette di un jersey preziosissimo che uno di questi immigrati e sua moglie hanno conservato fino ad oggi e hanno concesso che fossero messi in mostra. Oppure c'è il portale della pagoda del ristorante cinese di cui abbiamo parlato, il primo ristorante cinese di Milano, che gli eredi avevano custodito nelle cantine e che hanno deciso di mettere in mostra. Ci sono delle macchine da cucire che provengono dai laboratori di questi cinesi, quindi direi che ho trovato soprattutto aperture e quasi nessuna resistenza nei confronti di questo progetto. Matteo, ci sono state anche difficoltà, no, di integrazione, problemi di convivenza, ci sono ancora? Sì, è chiaro che c'erano ai tempi di mio nonno e ci sono adesso. Sono di ordine diverso perché è cambiato il mondo intorno a questi migranti cinesi. E prima di tutto io, insieme a Chai, nei nostri lavori ci siamo sempre occupati di contestualizzare le origini e lo sviluppo iniziale di questa comunità, perché per studiare l'immigrazione cinese di oggi, contemporanea, anche attraverso un linguaggio, come dire, innovativo e popolare come il fumetto, sarebbe comunque necessario un'equipe di ricercatori, perché i numeri oggi sono veramente incommensurabili rispetto a quelli di una volta. Fino al 1981 i cinesi d'Italia erano 1500, oggi i cinesi in Italia sono 350.000, quindi i problemi riguardano proprio i numeri e la percezione che poi noi abbiamo di questa presenza cinese. Sì, perché poi dall'edicola al bar, al parrucchiere, cioè è proprio tanta la presenza intorno a noi, e quindi è la nostra percezione che è cambiata. Prima erano nel quartiere, volevi andare a comprare una giacchetta cinese, ti ci immergevi volentieri, no, in quell'atmosfera. Oggi sono ovunque. La cucina cinese è legata alla filosofia e alla medicina.